Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erwinio Pocar. Avere un pezzo di pane, un pezzetto di pane, un ghiotto boccone di pane nero da poter mangiare così per la strada. Camminavo e mi figuravo proprio quel pane nero che avrei gustato tanto volentieri. Avevo una fame disperata e desideravo essere morto, sparire. Divenni sentimentale e mi misi a piangere. La mia pena era senza fine. Ed ecco, a un tratto mi fermai in mezzo alla strada, pestai i piedi sul selciato e incominciai a sacramentare. Che cosa ha detto? Idiota a me. Gliela farò vedere io a quella guardia. Che cosa vuol dire darmi dell'idiota? E mi voltai per tornare indietro. Ero fuori di me dalla collera. Correndo inciampai e caddi, ma senza badarci mi risollevai e continuai a correre. Arrivato sul piazzale della stazione mi sentii così stanco che non avrei certo potuto scendere fino al molo. Intanto mi era sbollita un po' anche la collera. Mi fermai a prender fiato. Non potevo infischiarmene delle parole di una guardia. Certo, ma dovevo forse inghiottire tutte le ingiurie. Bravo, interruppi me stesso. Ma quello là non era capace di comportarsi meglio. Accettai la spiegazione e ripetei: non era capace di comportarsi meglio. Poi tornai indietro. Dio buono, che idee, pensavo indignato. Uno si mette a correre come un pazzo di notte per le strade bagnate. La fame mi rodeva e non mi dava pace. Inghiottivo la saliva più e più volte per placare in tal modo gli stimoli della fame e mi illudevo che il rimedio fosse buono. Per parecchie settimane avevo mangiato troppo poco e in quegli ultimi giorni le mie forze erano diminuite notevolmente. Quando la fortuna mi assisteva e con qualche manovra riuscivo a raggranellare 5 corone, queste non bastavano quasi mai fino al prossimo guadagno senza che vi si frapponesse un altro periodo di fame. Chi soffriva di più erano le mie spalle e la schiena. Riuscivo a volte a placare per qualche minuto i morsi della fame tossendo o camminando curvo, ma per le spalle e la schiena non sapevo proprio come fare. Perché mai non venivano per me tempi migliori? Non avevo anch'io il diritto di vivere come tutti gli altri, come per esempio Pasca, il libraio antiquario, e Ennechen, il segretario della navigazione. Non avevo forse un paio di spalle da gigante e 2 braccia robuste per lavorare. Non avevo persino tentato di guadagnarmi il pane spaccando legna in un deposito di legname della Möllergate. Ero un poltrone. Non ero andato continuamente in cerca di un'occupazione. Non avevo frequentato lezioni e scritto articoli per giornali e letto e sgobbato giorno e notte come un matto. E non ero vissuto come un avaro di pane e latte quando ero ricco e sofferto la fame quando ero al verde. Avevo forse una fila di stanze al piano nobile quando dormivo all'albergo. In una bicocca abitavo, in un'officina di stagnaio, abbandonata da Dio e dagli uomini, vuota fin dall'inverno perché vi nevicava dentro. Non riuscivo proprio a sbrogliare la matassa. E così mi lambicavo il cervello e camminavo. Eppure nei miei pensieri non c'era neanche un lampo di cattiveria, né di invidia o di amarezza. Mi fermai davanti a un negozio di colori e stetti a guardare la vetrina. Tentai di leggere le etichette su alcuni barattoli, ma era ancora troppo buio. Seccato di quella mia nuova idea e furibondo perché non riuscivo a sapere il contenuto di quei barattoli, bussai al vetro e passai oltre. Vidi da lontano una guardia. Affrettai l'andatura e passandogli vicino dissi senza alcuna ragione: «Sono le 10!» «No, sono le 2», replicò quello meravigliato. «No, sono le 10, le 10!» E sbuffandogli andai vicino minacciandolo col pugno e gridando: «Sono le 10, ha capito?» Quello si fermò a riflettere un istante e mi guardò piuttosto sconcertato. Infine disse pacatamente: «In ogni caso, è ora che andiate a casa. Volete che vi accompagni?» Quella gentilezza mi disarmò. Sentii che gli occhi mi si empivano di lacrime e mi affrettai a rispondere: «No, grazie. Sono stato fuori un po' troppo, in un caffè. La ringrazio molto. Egli si portò una mano al berretto mentre mi allontanavo. La sua cortesia mi aveva sopraffatto e io piansi perché non avevo 5 corone da regalargli. Mi fermai a guardarlo mentre se ne andava lentamente per la sua strada. Mi passai una mano sulla fronte e piansi tanto più forte quanto più quello si allontanava. Mi rinfacciai la mia povertà, imprecai contro me stesso, inventai nuovi insulti magnifici nella loro brutalità e me li scagliai in faccia. Smisi di imprecare solo quando fui quasi a casa. Davanti al portone mi accorsi che avevo perduto la chiave. Già si capisce, dissi fra me con amarezza. Perché non dovevo perdere anche la chiave? Abito qua in una casa che al pian terreno una stalla e di sopra un'officina di stagnaio. Di notte il portone è chiuso e nessuno può venire ad aprire. Perché dunque non dovevo perdere la chiave? Ero bagnato come un pulcino. Avevo fame, un pochino di fame, e una stanchezza ridicola nelle ginocchia. Perché non dovevo dunque perdere la chiave? Perché, vedendomi arrivare, tutta la casa non si era trasferita ad Acker? E risi fra me, reso insensibile dalla fame e dallo sfinimento. Udivo scalpitare i cavalli nella stalla. Vedevo la mia finestra là in alto, ma non potevo aprire il portone. Ero stanco e scoraggiato, ma tutto era inutile. Volere o no, mi decisi pertanto a ritornare sul molo a cercare la chiave. Si era rimesso a piovere e sentivo l'acqua che mi scorreva giù per le spalle. Vicino al municipio mi venne una buona idea. Potevo pregare la polizia di aprire il portone. Mi rivolsi a una guardia e la pregai vivamente che venisse con me e mi aprisse se era possibile. Già, se era possibile, ma egli non poteva. Non aveva chiavi. Le chiavi della polizia non erano lì, ma nel reparto investigativo. E allora, già, allora potevo andare all'albergo. Veramente però all'albergo non ci potevo andare. Soggiunsi che non avevo soldi. Ero stato fuori in un caffè, poteva ben capire. Rimanemmo alcuni istanti sulla scala del municipio. Egli rifletteva tra sé e mi osservava. Nella strada pioveva a catinelle. Beh, allora non vi rimane altro che presentarvi all'ufficiale di guardia e dire che siete senza tetto, mi suggerì. Senza tetto. A questo non avevo pensato. Per dirci, era un'idea luminosa. Ringraziai la guardia per quell'ottimo suggerimento. Ma potevo entrare così senza difficoltà e dire che ero senza tetto. Sì, sì, senza difficoltà. Vi chiamate? Domandò l'ufficiale di guardia. Tangen, Andreas Tangen. Non saprei dire perché mentissi. I pensieri mi turbinavano nella testa e mi accendevano più idee di quante potessi smaltire. Su 2 piedi avevo inventato quel nome assolutamente sconosciuto e l'avevo buttato lì senza riflettere. Mentivo senza che fosse necessario. Professione? Sta a vedere che adesso mi butta fuori. Sulle prime pensai di spacciarmi per stagnino, ma non osai. Mi ero dato un nome come non l'hanno gli stagnini. Inoltre portavo gli occhiali. Pensai allora di essere sfacciato. Avanzai di un passo e dissi con voce ferma e solenne: «Giornalista!» Quello trasalì prima di scrivere. Stavo bene eretto davanti a lui. Un ministro senza casa. Non diede però alcun segno di diffidenza. Certo capiva perché la mia risposta fosse stata esitante. Che figura! Un giornalista al municipio senza un tetto sulla testa. «In che giornale, signor Tangen?» «Al Moanblad», risposi. «Purtroppo questa sera sono rimasto fuori fin tardi. Questo non c'è bisogno di scriverlo», mi interruppe e soggiunse con un sorriso. «Ma si sa, giovanotti fuori di casa, comprendiamo benissimo. E alla guardia che era seduta dietro a lui ordinò: accompagnate il signore di sopra nel reparto riservato. Buonanotte. Ero scosso da brividi gelati. Quale spudoratezza! E strinsi i pugni per darmi un contegno. Il gas rimane acceso per 10 minuti, disse la guardia dalla soglia. Poi si spegne, poi si spegne. Mi sedetti sul letto e sentii girare la chiave nella toppa. La cella illuminata era accogliente. Mi pareva di essere a casa mia, veramente al riparo, ed era proprio piacevole ascoltare la pioggia che cadeva. Potevo forse desiderare qualcosa di meglio che una cella così accogliente? Ero davvero contento. Seduto sul letto, il cappello in mano, osservando alla parete la fiamma del gas, incominciai a ripensare momento per momento a quel mio primo incontro con la polizia. Come li avevo presi in giro. Come, scusate, giornalista Tangen. E poi, Mohan Blade. L'avevo colpito al cuore, quel brav'uomo. Questo non c'è bisogno di scriverlo, vero? Fino alle 2 di notte in bagordi e la chiave dimenticata a casa insieme col portafogli gonfio di biglietti da 1000. Accompagnate il signore di sopra nel reparto riservato. Ed ecco spegnersi il gas all'improvviso. Mi trovai immerso in un'oscurità profonda. Non potevo vedere le mie mani nelle pareti bianche intorno, proprio nulla. Non mi rimaneva altro che andare a letto. E mi spogliai. Non ero abbastanza stanco, non riuscivo ad addormentarmi e rimasi a lungo a fissare il buio, a guardare l'oscurità densa e compatta, imperscrutabile, inconcepibile. Sentivo il contatto del buio come un incubo opprimente. Chiusi gli occhi, mi misi a canticchiare sottovoce, mi voltai e rivoltai sul cuscino per distrarmi. Tutto inutile. L'oscurità mi aveva stretto nelle sue spire e non mi dava un istante di requie. Mi ero sciolto addirittura nel buio. Mi ero immedesimato, confuso con l'oscurità. Mi misi a sedere sul letto e tesi le braccia. L'eccitazione nervosa si era impadronita di me ed era inutile cercare di vincerla. Me ne stavo seduto in preda alle più bizzarre fantasie. Tentavo di cullarmi, mi cantavo le ninne nanne, cercavo di addormentarmi ed ero tutto sudato per lo sforzo. Aguzzavo gli occhi nel buio. Un buio simile non l'avevo mai visto. Non c'era dubbio, mi trovavo in un genere speciale di oscurità, in un elemento disperato che nessuno aveva mai osservato fino allora. La mia mente era occupata dai pensieri più ridicoli e ogni cosa mi incuteva spavento. Mi scervellavo per un buco che avevo trovato nella parete accanto al letto, il buco di un chiodo, un segno nel muro. Mi soffiai dentro e cercai di indovinarne la profondità. Ah, quello non era certo un buco innocuo, tutt'altro. Era un buco misterioso, perfido, dal quale dovevo guardarmi. Ossessionato da questa idea, fuori di me per la curiosità e la paura, dovetti infine alzarmi e cercare il temperino finché non lo trovai. Così potei misurare la profondità del buco e assicurarmi che non attraversassi il muro fin nella cella attigua. Mi coricai di nuovo e tentai di addormentarmi, ma in realtà continuai a lottare contro le tenebre. Aveva cessato di piovere, non si udiva alcun rumore. Per un po' stetti in ascolto, sperando di sentire un passo nella strada, e fui contento solo quando udii passare qualcuno. A giudicare dall'andatura, doveva essere una guardia. A un tratto mi misi a schioccare le dita e a ridere. Per tutti i diavoli, avevo inventato, avevo scoperto una parola nuova. Ah, evviva! Mi sollevai e dissi: questa non esiste nel dizionario, l'ho inventata io. Cubo. è composta di lettere, come se fosse una parola vera. Pensa, figlio mio, che hai inventato una parola, cuboa, molto importante nella grammatica. E come la vedevo chiaramente quella parola nell'oscurità. Seduto sul letto, con gli occhi sbarrati, stupito della mia trovata, ridevo dalla gioia. Poi abbassai la voce fino a bisbigliare. Qualcuno poteva origliare, mentre invece volevo conservare la mia invenzione nel massimo segreto. Ma era la follia causata dalla fame. Ero vuoto, non sentivo dolori e i miei pensieri volteggiavano senza freno. Tra me incominciai a riflettere e, passando stranamente da un'idea all'altra, cercai di scoprire il significato della mia nuova parola. Non era affatto necessario che significasse Dio o ristorante, e chi pretendeva che significasse serraglio? Strinsi i pugni arrabbiato e ripetei: chi ha detto che deve significare serraglio? A guardar bene non occorreva neanche che significasse lucchetto oppure aurora. Eppure non doveva essere difficile dare il significato a una parola simile. Un momento. Intanto potevo dormirci sopra, tranquillamente. E seduto sul pagliericcio, ridacchiavo silenziosamente, senza pronunciarmi né pro né contro. Ma dopo qualche minuto divenni nervoso. La parola nuova mi dava fastidio. Mi risonava in mente di continuo e finì per impadronirsi interamente dei miei pensieri. La cosa diventava seria. Avevo pensato bensì a quel che non doveva significare, ma non avevo preso ancora nessuna decisione sul suo vero significato. «È una questione secondaria», dissi a voce alta, e stringendomi il braccio ripetei che quella era una questione secondaria. La parola, grazie a Dio, l'avevo trovata e questo era ciò che contava. Ma quel pensiero continuava a torturarmi e non mi lasciava prendere sonno. Nessun significato mi pareva adeguato a una parola così rara. Infine mi sollevai di nuovo, mi presi la testa fra le mani e disse: «No, è assolutamente impossibile attribuirle il significato di emigrazione o di manifattura tabacchi. Se potesse significare una cosa simile, l'avrei già deciso da un pezzo e ne avrei accettato le conseguenze. La parola invece sembrava fatta apposta per indicare qualcosa di incorporeo, un sentimento, uno stato d'animo. Possibile che non me ne fossi accorto subito?» E mi scervellai in cerca di qualcosa di immateriale. A un tratto ebbi l'impressione di udir parlare qualcuno, di sentirmi interrompere, sicché esclamai adirato: «Che cosa vuoi? Un idiota come te non è facile trovarlo!» «Refe, ma l'inferno, perché dovrei essere obbligato a farla significare refe se provo una vera ripugnanza per questo significato? La parola l'avevo inventata io e avevo tutto il diritto di farla significare quel che pareva a me. E per quanto ne sapevo, fino a quel momento non mi ero ancora pronunciato.» Il mio cervello era sempre più confuso. Infine balzai dal letto e cercai a tentoni il rubinetto dell'acqua. Non che avessi sete, ma la mia testa mi ardeva dalla febbre e avevo un istintivo desiderio di acqua. Dopo aver bevuto, ritornai a letto e mi appellai a tutta la mia forza di volontà per addormentarmi. Chiusi gli occhi e mi costrinsi a stare tranquillo. Rimasi così per alcuni minuti, immobile, e incominciai a sudare. Sentivo il sangue che mi fluiva nelle vene. Era buffo, aveva cercato il denaro in quel rotolo e aveva tossito una volta sola. Chissà se passeggiava ancora laggiù o era seduto sulla mia panchina. La madreperla azzurra, le navi. Aprii gli occhi. Non potevo certo tenerli chiusi se non riuscivo a addormentarmi. E intorno a me covava sempre la stessa oscurità, quella stessa eternità nera e imperscrutabile contro la quale si inalberavano i miei pensieri incapaci di afferrarla. Con che cosa potevo paragonarla? Feci sforzi disperati per trovare una parola abbastanza grande per definire quel buio, una parola così crudelmente nera da annerire la mia bocca quando l'avessi pronunciata. Dio mio, com'era buio! E già rivedevo il porto e le navi, i mostri neri che mi aspettavano, mi avrebbero attirato e trattenuto e con me avrebbero navigato per mari lontani, in regni tenebrosi non mai veduti da alcuno. Ecco. Ero a bordo, mi portavano via sull'acqua, mi libravo tra le nubi e scendevo. Gettai un grido di spavento e mi aggrappai al letto. Avevo fatto un viaggio pericolosissimo. Il vento mi aveva portato per l'aria come un fagotto vuoto. Che sollievo quando mi aggrappai al mio duro giaciglio. Ecco, morire è così, mormorai. E ora dovrò morire. Stetti così qualche tempo pensando soltanto a questo, che a momenti sarei morto. Ma poi mi alzai a sedere e domandai con voce aspra: chi ha detto che adesso devo morire? Come inventore della parola ho tutto il diritto di stabilire io stesso che cosa debba significare. E mi udivo fantasticare, udivo le mie parole. La mia stravaganza era un delirio di debolezza e di sfinimento, ma ero cosciente. E come un lampo mi balenò nel cervello l'idea che fossi impazzito. Atterrito saltai dal letto, cercai la porta, tentai di aprire, mi lanciai con violenza contro di essa per abbatterla, battei la testa contro il muro, mi morsi le dita, piansi e bestemmiai. Nulla si mosse, soltanto la mia voce echeggiava nella stanza. Ero caduto per terra, nel mezzo della cella, non avevo più la forza di girare intorno all'impazzata. Ed ecco baluginare qualche cosa lassù, in alto, davanti agli occhi, come un quadrato bigio nella parete, un barlume biancastro, un presentimento, la luce del giorno. Oh, che respiro di sollievo! Mi distesi sul pavimento e piansi di gioia a quel barlume benedetto. Singhiozzai di gratitudine e andai a baciare i vetri della finestra come un pazzo. Ma anche in quel momento ero conscio di ciò che facevo. Sparita ogni contrarietà, sfumata la disperazione, placato il tormento, non avevo più alcun desiderio inappagato. Mi inginocchiai, giunsi le mani e attesi paziente lo spuntare del giorno. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.